Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono ancora Alessandra Fiori e per raccontarvi questo 1988 c'è sempre lui, Franco Schifani. Ciao Alessandra. Allora, dico subito che il 45 giri numero 1 nel 1988 in Italia è E dopo tanto tuonar piove, arrivano i Duran Duran che si confermano il fenomeno musicale del 1988 in Italia con questo brano, I Don't Want Your Love, Io Non Voglio Il Tuo Amore. Vanno alla prima posizione in classifica, cara Alessandra. Caro Franco, nel 1988 noi siamo diventati 56,63 milioni. Nascono 569.000 bambini, un po' di più. Che bello, si nasceva tanto, infatti il saldo era positivo. Mentre a partire dagli anni 90 comincerà a essere sempre più basso il numero delle nascite, lo scorso anno per la prima volta nella storia italiana il numero delle nascite è sceso sotto la soglia dei 500.000. Ma intanto la speranza di vita nell'88 è di 76,37 anni, oggi la speranza di vita alla nascita è di 80,1 anni per gli uomini e di 84,7 per le donne. Che mi vuoi dire? No, continuo nella mia ipotesi che voi siete meno stressate e quindi che vivete di più, cara Alessandra. Che siamo, no? Meno stressate? Sì, secondo me. Oppure lavorate siamo meglio con lo stress. Io sono serenissima, infatti. Non mi trovi serenissima? Serena. Detta la serenissima. Serenissima. Ma nel 1988 c'è un'altra novità, perché il 22% degli italiani circa pratica sport con continuità e aumenta il numero dei praticanti sportivi per tutti gli anni 80 e scenderanno però fino al 18% nel 95 per poi risalire allo stesso numero più o meno nel 2010. Franco, lo sai poi quanto ci vuole nell'88 ad andare da Roma a Milano in treno? Ma quasi 5 ore, se mi ricordo bene. Hai studiato? Perché nel 1988 viene inaugurato il pendolino Roma-Milano. Oggi invece quanto ci vuole? Neanche la metà, secondo me, vero? Ci vogliono 3 ore, anche 2 ore e 50. Però torniamo ai tuoi Duran. Durano? Assolutamente sì. E sono uno dei gruppi cult, appunto, degli anni 80. Però intanto c'è un artista italiano che è entrato in classifica nel 1988 con tanti brani. Non possiamo ovviamente mettere tutti, perché sennò dobbiamo Chi fare sarà? Una puntata speciale. Insomma, è uno che dura. È qui la festa! Facci fare quello che ci pare pare. Homegirl beware of the pop. Homegirl beware of the pop. Facci fare quello che ci pare pare. Facci fare quello che ci pare pare. E qui la festa, giovanotti. Pensa Alessandra che Cecchetto, suo amico, scopritore, collaboratore per tanti anni, in un primo momento il nome Giovanotti gliel'aveva bocciato, poi insomma l'ha trovata adatto al personaggio e il nome è rimasto. Ecco, in questo periodo Giovanotti diventa uno dei personaggi di spicco di Radio DJ, guarda caso, e rimane storico il suo collegamento nella notte di Capodanno tra il 1987 e il 1988. Pensa, tiene una diretta radiofonica, non so come ha fatto, di 8 ore di fila senza interruzione. Hai capito? Giovanotti, che poi è diventato Lorenzo. Ma comunque si chiami Giovanotti o Lorenzo, riempie sempre gli stadi. Sì, assolutamente, confermato. Quest'estate è stato un grandissimo successo, non solo lui, però insomma anche lui a Napoli in primavera. Dappertutto. Lo sai che Giovanotti, fra l'altro, lui come nome non aveva scelto questo, aveva scelto Giovanotti. Poi il tipografo che doveva stampare il poster dice Giovanotti, ma secondo me si sono sbagliati, ha scritto Giovanotti insieme, quindi lo era si deve... Giovanotti. Un nome italo-americano voleva, ho capito. E allora insomma gli ha portato bene poi alla fine, bravo il tipografo. E allora ecco invece un gruppo che negli stadi vive da anni sempre alla grande e visivamente è sempre innovativo. Desired You Too. Pensa che questo brano, tratto da Rattle and Rum, è il primo single del gruppo, dopo tanta gavetta, a raggiungere la vetta della classifica inglese. Incredibile, ci hanno messo tantissimi anni. Mentre invece negli Stati Uniti, negli Billboard Hot 100, nei primi 100 ci è arrivato quasi subito ed è arrivato addirittura in terza posizione. Devo dire una cosa di You Too. Io li ho filmati dal vivo al Ritz Club di New York nel 1981, quando ancora non erano veramente nessuno, con una piccola telecamera di cui conservo ancora gelosamente il master, ovviamente. Ovvio. Ed era un club da 1200 persone, avevano una energia. Beh, non tanto piccolo, eh. No, ma sai, YouTube, se tu pensi, uno stadio dove per raggiungere l'ultimo che ha pagato il biglietto in piccionaia hanno bisogno di tecnologie, di luci, di laser, di impianti, eccetera. Io l'ho visto in un clubetto di 1200 persone, ti assicuro che c'era un'energia pazzesca in quel posto, erano tutti giovanissimi, saltavano sul palco, The Edge stava sempre lì con la sua chitarra e faceva le sue cose, ed era il giorno di St. Patrick's Day, erano tutti completamente ubriachi, tanto è vero che a un certo punto, insieme al tale Garland Jeffrey, hanno anche cantato delle canzoni di Neil Young. Di Neil Young. Sì, si sono messi comunque 1200 non è male, e da qualche parte bisogna pur partire. Assolutamente, la gavetta ha funzionato, Alessandra. Nel 1988 invece in Italia, dopo 8 anni, si conclude il primo processo per la strage della stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, appunto. I giudici della seconda corte d'assise di Bologna condannano all'ergastolo per il reato di strage 4 persone. In nome del popolo italiano la corte ha pronunciato la seguente sentenza. Dichiara Fachini Massimiliano, Fioravanti Giuseppe, Valerio, Mambro Francesca e Picciofuoco Sergio colpevoli dei delitti di strage e di omicidio plurimo aggravato contestati nei capi terzo e quarto dell'imputazione, e li condanna per i reati di cui ai capi terzo e quarto ciascuno nella pena dell'ergastolo. Così si chiude il primo grado di giudizio con le condanne, abbiamo sentito, di Fioravanti, Mambro, Fachini e Picciafuoco. Altri imputati vengono condannati per banda armata e associazione sovversiva, altri ancora vengono assolti con diverse formule. Sempre per insufficienza di prove vengono assolti dal reato di associazione sovversiva, ma condannati per depistaggio, Licio Gelli, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte e Francesco Pazienza. Fioravanti e Mambro, che pure ammettono le loro responsabilità in molti dei delitti commessi, continuano a negare di aver avuto un ruolo nella strage di Bologna, e per loro la sentenza definitiva arriverà nel 1995, e ovviamente, Franco, ne riparleremo. Comunque molte, moltissime ombre restano su una delle stragi più sanguinose d'Italia, che contò, lo ricordiamo, 85 morti e più di 200 feriti. Così il sindaco di Bologna di allora, Renzo Imbeni, commenta le condanne. Penso di poter dire che una parte di verità è riconosciuta ufficialmente da un tribunale della Repubblica Italiana, e una parte di giustizia, possiamo dire, finalmente, dopo 8 anni, è fatta. Certo, non tutto è spiegato. Questo lascia in un qualche modo in ombra una parte, appunto, dello svolgimento, dell'ideazione, dell'esecuzione della strage del 2 agosto. Il 28 luglio del 1988 viene riaperto anche un altro importante caso. 16 anni dopo l'omicidio Calabresi, nuove rivelazioni portano all'arresto a Milano di Adriano Sofri e Giorgio Pietro Stefani, ex membri di Lotta Continua, arrestati con l'accusa di essere i mandanti dell'omicidio del commissario Calabresi. Viene arrestato anche Ovidio Bonpressi come esecutore dell'omicidio. Anche questo è uno dei processi più lunghi e complessi della storia italiana, che arriverà a conclusione solo nel 1997. Se ne riparleremo. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta... Mix 24. Musica e storia. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo nel 1988. Franco, che cosa stiamo ascoltando? Ma stiamo ascoltando Bad Medicine di Bon Jovi. Bon Jovi. Quindi, parlavamo prima degli U2, quando yes. si esibivano in piccoli club e sono finiti negli stadi. Giustamente, stessa cosa per Bon Jovi. Pensa che John Francis Bon Jovi, quindi Bon Francis. Bon Francis, il papà è originario di Sciacca. Si è trasferito dalla Sicilia negli Stati Uniti, insomma, e poi ha avuto molti figli, insomma la famiglia è rimasta lì, ovviamente. Ecco, il nostro Bon Jovi, prima di essere un famoso cantante rock, era stato iscritto chiaramente alle scuole cattoliche, come facevano tutti gli italiani, gli italoamericani all'epoca, e invece nella fanciullezza cosa faceva? Marinava la scuola. E dove andava quando marinava la scuola? Suo cugino, Tony aveva, era il proprietario di uno studio di registrazione a New York molto famoso che si chiamava The Power Plant. Pensa che in questo studio hanno registrato gli Aerosmith, Bryan Adams, Dire Straits, Duran Duran, Bruce Springsteen e tantissimi altri, John Lennon, eccetera eccetera. Ecco, Francis però non è che è cominciato dalla console, lui faceva il janitor, faceva l'uomo delle pulizie, il tutto fare. C'è da riparare un tubo, arriva Francis. C'è da pulire per terra, arriva Francis. Poi a un certo punto, gossip, lui aveva 20 anni, bello come il sole, arriva in studio, Cher, bella come il sole, un sex symbol, 37 anni, e ti ho detto tutto, e mi hai detto sulla tutto. Carriera, in qualche modo diciamo che è decollata, gossip, malevolo, cattivello. Senti, gli stadi, mi dicevi prima, gli U2, giovanotti, insomma, davano agli artisti il modo di raggiungere un numero pazzesco di persone, però c'era stata anche MTV che li aveva un pochino aiutato con i video a farsi un pubblico un po' più ampio. Assolutamente, però sai che c'è? Che prima si faceva il disco e costava per esempio $1, con questo dollaro si andava poi nelle radio, si vendevano i dischi. Quando è nata MTV, se tu non avevi 3 video da promuovere durante la programmazione del tuo LP, non eri nessuno, cioè nessuno comprava i dischi, o eri su MTV oppure non esistevi. Però questi video costavano tantissimo, tanto è vero, mega produzioni. Ma mega, guarda Thriller di Michael Jackson, stai parlando di somme, però capolavori, però ragazzi sclavici, ok, quanto abbiamo speso di produzione 1, quanto stiamo spendendo di promozione? Beh, sai, MTV, stiamo spendendo 5, comincia a diventare un po' problematico. Invece c'è uno che problemi di soldi non ne aveva, e quindi diciamo che i suoi video se li faceva da solo e spendeva quello che voleva. Picking up scales and broken chords, puppy dog tales in the house of lords, tell me darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children say. Once upon a long ago, Paul McCartney. Pensa che con questa canzone, cara Alessandra, questo è stato pubblicato. Bella, nel... però tanto romantica. Bella. Pubblicata nel 1987 a novembre, cioè arrivata chiaramente più tardi nelle classifiche. Ecco, in Italia questa canzone venne presentata, e devo dire che un grande successo, da Paul McCartney al Festival di Sanremo. Ebbe appunto successo, e in Italia in quell'anno arrivò fino alla seconda Ma posizione. Ma io non ti ci porto subito al Festival di Sanremo. Perché no? Perché no? Perché in quella primavera del 1988, l'11 marzo, si dimette il capo del governo Giovanni Goria, perché è sfiduciato dal Partito Socialista Italiano per non aver chiuso la centrale nucleare di Montalto di Castro. Il 13 aprile nasce il nuovo governo pentapartito di Ciriaco De Mita, mentre il 21 giugno Achille Occhetto diventa il nuovo segretario del Partito Comunista Italiano, e pensa che sarà l'ultimo segretario del Partito Comunista Italiano e il primo segretario del PDS, il Partito Democratico della Sinistra, dopo la cosiddetta celebre svolta della Bolognina. Intanto scompaiono anche alcuni due protagonisti della politica italiana. L'11 maggio muore a Roma Giuseppe Saragat, ex presidente della Repubblica, e sempre a Roma l'11 maggio è la volta dell'ex segretario del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. Aveva 74 anni. Nel 1987, un anno prima della sua morte, Giovanni Minoli lo intervistava a Mixer. Perché lei di sé dice «sono fascista»? Anzi, la parola fascista ce l'ho scritta in fronte e più di così non potrei esserlo. Esattamente cosa vuol dire? È la verità. Vuole dire che non sono mai stato obbligato a diventare fascista, a continuare ad essere fascista nei tempi buoni e felici in cui essere fascista poteva rappresentare una comodità o un vantaggio. Sarebbe veramente vergognoso che una volta che il fascismo non rappresenta più un vantaggio ma uno svantaggio, qualche volta un pericolo, un rischio comunque, sarebbe vergognoso da parte mia non insistere. Beh, una certa coerenza comunque, non trovi, Franco? Assolutamente. Guarda, è emozionante sentirlo dopo tanto, tanto tempo. Ma tu mi dicevi degli americani. Nel 1988 anche gli artisti italiani avevano già una certa passione per i video alla MTV. Sì, lo avevano, però insomma, diciamo che l'America è l'America, con il suo mercato di tantissime persone che comprano i dischi, in Inghilterra la stessa cosa, anche qui si comprano dei dischi, però insomma non si spendeva tanto per fare dei video. Però quelli che avevano un budget e anche minimo, devo dire che lo adoperavano bene. Esce il colpo di cannone nei film che vedi alla TV, prendi la mira in mezzo al cuore dal sottomarino. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Mix 24, musica e storia. Bentornati a Mix 24 Musica e Storia nel 1988 con Franco Schipani e moi Alessandra Fiori. Franco, ciao Ale, bentornata. Bionda. Stiamo, proprio il caso di dirlo, cara bionda de mi corazon. Questa era Gianna Nannini, hey bionda. Franco, ma quando tu vedi uno show televisivo importante americano, per esempio gli Oscar, c'è un palco meraviglioso, le riprese sono studiatissime, Ho capito. Stai arrivando a Sanremo. Bravo. Dillo che vuoi parlare di Sanremo. Non vedo l'ora. Allora, guarda, Sanremo nel 1988, ecco, i cantanti si esibiscono ancora dal vivo, sì, però sono su basi preregistrate. A me questa cosa è dà pazzesco, un po' fastidio. È pazzesco. Eppure davanti alla televisione ci sono 60 milioni di italiani che tirano tardi, capisci? Anche se poi alcuni dei nostri cantanti, in effetti, del microfono non ne avrebbero proprio bisogno. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore, perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo. E questo è Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Sai, a Sanremo l'orchestra non era ben vista in quel periodo, perché quando poi eseguivano la canzone dal vivo era un po' differente da come veniva sul disco. Le case discografiche erano un po' spocchiose. Non gradivano molto. Non gradivano molto. Non la vogliamo uguale a quella che poi voi andate a comprare al negozio. Questa era un io po'... sto sviluppando una passione per un certo melodico. Che ne dica Chiappini, mi emoziona Ranieri, perdere l'amore. Ecco, pensa che questo brano, Alessandra, è stato presentato l'anno precedente da Gianni Nazzaro e fu scartato. Invece l'anno dopo vinse nell'interpretazione di Massimo Ranieri. Quindi immagina un po' le polemiche al festival sulla giuria che doveva decidere l'entrata in lizza delle canzoni. Bah, che ho detto tutto. Mi hai detto tutto, io ancora no, perché a proposito di televisione, il 1988 è un anno importante proprio per il piccolo schermo, perché il 20 giugno viene presentata la famosa legge Mammì, dal nome del ministro delle poste dell'epoca, appunto Oscar Mammì. Si esce da questo caos dell'etere stabilendo finalmente un piano di ripartizione e un piano di assegnazione delle frequenze che eviti quella occupazione piuttosto selvaggia che vi è stata finora e che ha determinato la situazione italiana, una situazione che in qualche caso ha creato anche contrasti con altri paesi confinanti. La legge Mammì, che entrerà in vigore due anni dopo, nel 1990, lo ricordiamo, regola il controllo delle emittenti televisive. Viene vietato, ovvero, il controllo di reti televisive a gruppi che controllano già una certa quota di stampa periodica. Berlusconi, come conseguenza, cede al fratello Paolo il quotidiano Il Giornale. Dimmi, Franco. Pensa quanto è importante fare una legge con il tuo nome. Cioè, io Mammì non me lo ricordo come è fatto fisicamente, no? Però la legge Mammì... Però dice, sai la televisione? Ah, la legge Mammì, ti ricordi Mammì? Vorresti Mammì. Una legge Schipani? Oggi vado da qualche parte e mi voglio vedere che viso ha questo Mammì. Signor Mammì. Sì, sì, sì. Franco, rimanendo sempre in ambito televisivo, ci fu un fatto di cronaca in questo 1988 che ebbe un'eco pazzesca sul piccolo schermo, perché il 18 gennaio l'anonima sequestri rapisce a Pavia un ragazzo di 18 anni. Il suo nome è Cesare Casella. È uno dei più lunghi sequestri di persona a scopo di estorsione mai avvenuta in Italia. Dura, pensa, 2 anni. L'attenzione dei mass media cresce intorno a caso, soprattutto nel giugno dell'89, quando Angela, la madre di Cesare, va in Calabria per chiedere la liberazione del figlio. Verrà chiamata dalla stampa per questo suo atto madre coraggio. Sono andata lì in piazza dove c'era il municipio, mi sono seduta, ho aperto il mio tavolino, il mio libro, ma la gente non si avvicinava. Non si avvicinava nessuno, nessuno, nessuno. Poi alla fine ho pensato, va bene, se loro non vengono da me, andrò io da loro. Ho cominciato ad andare da una persona a parlare, poi furtivamente passata di lì una vecchietta, mi ricordo di averla fermata, lei si è fermata, ecco, da lì, da una semplice vecchietta sono arrivati un po' tutti. Ecco, era appunto madre coraggio. E a 14 anni dalla liberazione, Cesare Casella, che ha ormai 34 anni, viene intervistato da Giovanni Minoli e così racconta la drammatica esperienza dei 2 anni passati senza mai uscire dal covo. Non sono mai uscito da lì. Io avevo le catene e potevo soltanto magari sedermi, ma alzarmi in piedi non potevo uscire. E quindi chiaramente dopo un po' uno si riesce anche a organizzarsi dentro in quei 2 metri per 2. Cercavo di lavarmi, poi facevo colazione e quindi cercavo insomma di scandire la giornata. Dentro di te che cosa hai trovato che non sospettavi di avere? Cioè, che tipo di forza, che pensieri? Ma non lo so, è strano, è una cosa che anch'io non... Ma pregavi, non lo so, cioè avevi un atteggiamento... No, sì, un po' pregavo e un po' dicevo, devo farcela, devo tornare a casa, perché sicuramente i miei chissà cosa staranno passando e quindi non posso deluderli. Ma soprattutto è questa donna straordinaria. Quell'esperienza lì ha cambiato il vostro rapporto oppure no? Quello che abbiamo passato... Ci ha uniti di più, quello di sicuro. Ne avete riparlato molto? Non tanto, non ho voluto raccontargli tante cose per non fargli soffrire di più, no? Senza l'intervento di mia madre non sarei, forse ero ancora là. No, I won't be afraid, oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me, so darling. By me. By Me, Benny King e Diana Polanca sono andati al Festival di Sanremo, però loro hanno detto: noi vogliamo l'orchestra, vogliamo la band, noi sulle basi non cantiamo, e sono stati accontentati. Cara Alessandra, un momento di pausa. Da mi che? Prendo così un volo pindarico. Ti faccio sentire un brano che mi piace tanto. Together Forever, Rick Astley, inglesissimo. Ma tu sei sicuro che ti piace tanto tanto questa canzone? Mi piace tanto tanto. L'ho conosciuto, pensa, non a New York, non qui, ma in Repubblica Dominicana. Un inglese in Repubblica Dominicana. Niente merengue, niente baciata, niente reggaeton. Disco music. E noi rimaniamo invece nel Regno Unito, dove il 21 dicembre a Lockerbie in Scozia esplode in volo un aereo della Pan Am. I morti sono 259 e 11 nel villaggio. Si tratta di un gravissimo atto terroristico per il quale vengono accusati i terroristi libici. I primi soccorritori trovano uno scenario drammatico. È molto difficile che ci siano dei sopravvissuti. Al lato di quella casa mi è sembrato di vedere correre un ragazzo. Potrei averlo anche immaginato. Mi sembrava che bruciasse. Quando arrivai a Sherwood Park c'era una gran folla e molto fumo. Intervenni subito e mi resi conto che 3 o 4 case erano state cancellate, sparite nel cratere. Non avevamo idea di quello che ci aspettava. Nessuno di noi aveva mai vissuto una cosa simile. Camminammo per un'oretta buona e poi ci imbattemmo nel primo corpo. Alcuni erano ridotti molto male, altri erano intatti, molti erano completamente senza i vestiti. Li ricordo tutti uno per uno. Tutti. Nessuno dei viaggiatori sopravvive all'attentato e Lockerbie diventa un vero e proprio giallo internazionale. Nel 2001 sarà condannato per la strage il terrorista Mohamed Al-Megrahi, terrorista libico che dopo la prigionia in Scozia, ormai malato terminale di cancro, ritorna in patria in Libia e lo fa su un aereo personale di Gheddafi e verrà accolto a Tripoli da una folla festante. Un caso che naturalmente ha fatto discutere e ha sconvolto l'opinione pubblica mondiale. Intanto nel 1988 sia Francia che Stati Uniti votano per i loro presidenti. L'8 maggio François Mitterrand viene eletto, anzi rieletto, presidente. Ha stravinto al ballottaggio contro il suo rivale Jacques Chirac. L'8 novembre invece si tengono le elezioni presidenziali in America e viene eletto presidente degli Stati Uniti il repubblicano George Bush. Parliamo del padre. Sarà il 41esimo presidente degli Stati Uniti. Gentler nation, I meant it and I mean it. Un'America più benevola e gentile era stata indicata come un traguardo da George Bush nel suo discorso della vittoria, che come vuole la tradizione aveva riconosciuto l'onestà ed i meriti dell'avversario sconfitto. Una vittoria cospicua, anche se non paragonabile a quelle colte da Reagan, quella che porterà a gennaio Bush alla Casa Bianca. 40 stati per un totale che stasera aveva già superato i 426 voti del collegio elettorale ed il 54% dei suffragi, su un minimo storico di votanti, meno del 51%. A poche ore dalla sua massiccia affermazione elettorale, il presidente designato ha auspicato in termini molto generici e senza una scadenza precisa il suo intento di incontrare Gorbaciov. E proprio durante il mandato di Bush padre, l'anno dopo l'elezione, nel 1989, il mondo assiste alla caduta del muro di Berlino, Franco. Però di questo ne parleremo nell'89, ovvero venerdì prossimo. Vengo a vivere con te, lo sai, mi sono innamorato. E la vita è troppo corta e non possiamo perdere tempo. O forse è proprio il tempo che non può perdere noi. Vieni a vivere con me, sai quante cose potremmo fare. Tu potresti suonare il piano mentre io spalmo la maionese. Potrei spalmartene un po' sul collo. Luca Carboni, vieni a vivere con me. Lo sai che ha fatto impazzire generazioni di ragazze e ragazzine ancora oggi? C'è Antonella Migliaccio che sorride, cioè forse c'è una lacrima. Ma non sai, stamattina ha detto, ma abbiamo messo quel pezzo? Sì. Io qua, io sono preoccupatissimo. No, bisogna trovarlo, c'è da un quarto ride, d'ora, dice, dobbiamo cercarlo, mettono assolutamente. Calma, Antonella, l'abbiamo fatto. L'abbiamo messa, calmati, calmati. Ok, comunque questo è un brano che ha spopolato al Festival Bar, dunque ci sono stati anche Nick Emen e Di Grande, tantissimi, però guarda che nel 1988 ci sono due artisti italiani che sono andati alla grandissima. Scivola, scivola, dove non da libera ti porta via, andamento lento questa melodia, melodia, risonanze nere senza ipocrisia, andare un po' più su e vieni vieni con me, e vieni vieni con me, alle lagne, alle lagne in appesa a me, show me, show me the way, show me, show me the way, è guardare più lontano e perdersi in se stessi, la luce che rinasce coglierne i riflessi, su pianure azzurre si aprono. Andamento lento, Tullio De Piscopo, un 45 giri bellissimo. La lelai, la lelai, la lelai. Sì, sul retro c'era Tambò, Tambò da Re. Ecco, De Piscopo non si è fatto mancare nulla, ha chiamato Alfonso Jones al basso, James Senese, afroamericano che io adoro, e addirittura, addirittura Lester Bowie. Ecco, invece musica è di Eros Ramazzotti, grande successo non soltanto in Italia ma europeo, pensa che in Germania è rimasto in classifica 41 settimane, 53 addirittura nei Paesi Bassi, passando per la Svizzera e l'Austria. Bravo Eros! Ecco, e passando dall'Austria all'Iran e all'Iraq, il 20 agosto del 1988 viene firmato il cessate il fuoco dopo 8 anni di guerra. Lo scontro, che appunto è cominciato nel 1980, ha causato 1,5 milioni di vittime. E il 7 dicembre del 1988 un disastroso terremoto di 6,9 gradi della scala Richter colpisce l'Armenia, e anche qui purtroppo i morti sono numerosissimi, sono 50.000. Però c'è una buona notizia in questo 1988, perché il 2 dicembre in Pakistan Benazir Bhutto diventa il primo ministro. A 35 anni è la prima donna a ricoprire questo ruolo in un paese musulmano ed è la più giovane del mondo. Sarà autrice di una battaglia per la promozione dei diritti civili. Primo ministro dall'88 appunto al 90 e poi dal 93 al 96. Per due volte è costretta a dimettersi per scandali legati ad accuse di corruzione di cui si è sempre professata innocente. Benazir Bhutto muore il 27 dicembre 2007 a seguito di un attentato suicida avvenuto al termine di un suo comizio, e quella che abbiamo sentito è la voce appunto del suo ultimo discorso. Ma Franco, 1988, tu eri negli Stati Uniti e cosa combinavi? Ero in giro con Renzo Arbore e Gigi Telesforo, eravamo a New Orleans per scoprire nuovi talenti, conoscere un po' i musicisti del luogo, perché poi lui aveva intenzione di portarli in Italia. Ma, come dice Renzo Arbore... Sì, la vita è tutto qui, e noi giochiamo, e giochiamo, perché noi non ci arrendiamo, fino a quando non vinciamo. Sì, la vita è tutto qui, e sento dimmi quante emozioni, perché con queste ci danno i milioni. Renzo Arbore, sì, la vita è tutto un quiz, evviva le televisioni! E sulle televisioni nascono due programmi di grandissimo successo, che sono Striscia la notizia e poi quest'altro. Perché non ne posso più, Che barba, che noia! Naturalmente Casa Vianello, Franco, trasmessa dall'88 al 2007 con due grandissimi che sono Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Child Don't Mind, Guns N' Roses. Questo era uno dei brani che non si poteva ascoltare a New York mentre andavi in bicicletta. C'era un'ordinanza, perché quando avevi le cuffie e sentivi queste canzoni ad alto volume andavi a scontrarti contro le macchine, capisci? Allora ho detto basta, non si possono portare le cuffie. Stavano cercando di eliminare i nostri Walkman. Ma anche adesso non è che si possono portare, lo sai. Ma all'epoca c'era veramente, ti assicuro, una strage. Adesso abbiamo le cuffie, ma per stare sempre collegati al telefono, a chiacchierare, a parlare, a ascoltare. Comunque qui c'è stato un tentativo di golpe, avete tentato di togliermi una canzone, ma io ho combattuto e è rimasta, spero. Ho lottato per avere Pump Up the Volume, Mars. Ed è anche un brano, questo qua non lo potevi ascoltare in cuffia andando in bicicletta, mia cara. Comunque nel 1988, Franco, oltre alla musica escono un sacco di grandissimi film. Dell'Ultimo Imperatore ne abbiamo già parlato nel 1987, ma vince 9 Oscar nel 1988. Ma poi il film che ha incassato di più nell'88 è questo. Buongiorno, caffè? Sì, ottima idea. Sally Dips, Dips Sally, 4610192. Come hai fatto? Non lo so. Sai a memoria tutto l'elenco? No. Sei partito dall'inizio? Sì. Dove sei arrivato? G. G. Rain Man, Tom Cruise, Dustin Hoffman e Valeria Golino, un record di incassi del 1988. Franco, però lo dobbiamo salutare questo 1988. Come? Salutiamolo, Alessandra, vieni a vivere con me. Che paura, Franco, sei impazzito. Ma no, è una canzone, non ti preoccupare, su, ti vedo già tutta preoccupata. Moltissimo, questa l'ha scelta Antonella Migliaccio perché è un brano dell'88 che abbiamo già sentito nella versione originale, però nel 2013 Luca Carboni la canta insieme ad Elisa. Vieni a vivere con me, sai quante cose potremmo fare. Tu potresti suonare il piano mentre io spalmo la maionese. Potrei spalmartene un po' sul collo e leccandoti far tremare. Bac. Franco, ho la soluzione. Dimmi. Vengo a vivere con te nel 1989. È già passato l'89. Appunto, Franco. Ah, ho capito, grazie, molto carina. È vero, Franco, ti salvi, lo sai che ti salvi anche te. Noi ci sentiamo venerdì prossimo, appunto, nel 1989. Ciao da Alessandra Fiori. E da Franco Schipani, ciao. Ciao. Potremmo essere felici, fare un mucchio di peccati. Per chi votare, andare in centro con la bicicletta, la bicicletta tra ralle rullare, e imparare a ballare il tango, che nella vita serve sempre, parlare un'ora del colore, per ridipingere il soffitto, poi nel silenzio abbassare gli occhi, cercando nuovi angoli da baciare. Potremmo essere felici, fare un mucchio di peccati. Potremmo essere felici, a volte un po' disperati. Potremmo dirci certe cose da fare a capo nella pelle. Potremmo fare certe cose che ci fucilano.